In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto di Gianluca Nicoletti. Nei giorni in cui tutti vanno per strada con una mascherina in testa, io e Tommy siamo andati in giro con dei caschi da palombaro. Sembrava paradossale, la gente ci guardava, ci prendeva per persone pazze che scherzavano, ironizzavano su una situazione tragica, ma non potevamo farne a meno. Eravamo stati a Castelnuovo di Porto nel laboratorio di Roberto Molinelli. Laboratorio è un garage che lui ha allestito come stanza delle meraviglie. Molinelli è uno scenografo, un costruttore di macchine fantastiche per il cinema. È colui che ha costruito il costume Copperman, quello usato da Luca Argentero nel film omonimo, che è un costume immaginato per un supereroe un po' folle, supereroe persona normale, anzi uno considerato con un cervello ribelle un po' come i nostri. E per farglielo un fabbro amico suo ha preso degli oggetti più disparati e di risulta, pezzi di vecchie macchine, tubi, congegni che altrimenti sarebbero finiti in una discarica. È venuto fuori un costume da supereroe. Beh, questo altro non è che l'apoteosi di quella che è la filosofia del lavoro di Molinelli, che costruisce esseri fantastici, robot, macchine antropomorfe, sempre usando quella che è la risulta, quasi le spoglie dei nostri oggetti quotidiani, dei nostri piccoli elettrodomestici, delle attrezzature che vediamo trasportare da idraulici, meccanici, elettrauti, pezzi di motore, pezzi di macchina, pezzi di frullatore, tubi, insomma tutti messi assieme, poi assemblati, dipinti, organizzati, sembrano quasi la risurrezione totale di macchine che vengono fuori da una sorta di post-umanità in cui gli esseri umani non esistono più e le macchine, a forza di essere usate e guardare gli uomini, loro stesse si immaginano e si autocostruiscono con fattezze semiumane. E quindi immaginate questo laboratorio pieno di piccoli robot, di macchine. Sembra quasi il laboratorio del costruttore di progetti in carne in Blade Runner, quello in cui vanno poi i due replicanti umani e lo uccidono, che era servito da tanti piccoli robottini semoventi. Beh, questo è lo studio di Molinelli, e Tommy e Filippo, che mi accompagna, non possono che esserne affascinati. Ho sempre pensato, mi sarebbe piaciuto avere un casco da palombaro, e a un certo punto ho detto, ma me lo faccio, perché devo cercare un pezzo vero. E questi sono realizzati con materiale plastici, oggetti. Poi il principio su cui lavoro su tutto è sempre quello di utilizzare materiale di recupero. È tutto materiale di recupero, infatti io sono tubi corrugati, serpenti vecchi, corrugati, cose, elettrici, materiale plastico. Questa è una cupola, questi sono i portafiori. Sono i fusti della birra artigianale. Ah, è vero. Che li fanno in plastica così adesso. Trasparente, e questo l'ho tenuto così a naturale e ha quell'aspetto, diciamo, da casco, un po' Flash Gordon. Questa è una tua installazione, è una fatta mia installazione, così. È un pezzo che è indossabile. Vuoi provarlo? Posso levarlo? Come sì, no? Sì. Assolutamente. Va, Filippo, ti piace? Ti faccio una foto. Ti faccio una foto, aspetta. Beh, questo è veramente il Disneyland, per gli appassionati di solito. Cioè, ecco, mi ricordo. No, io credi. La metti di qua, ripeto, io ho decine e decine di oggetti. Questo è un'altra cosa, vuoi provarlo? È indossabile anche questo. Ciao. E devo dire, fa un certo effetto. Vai. È un guanto chiodato? Sì. Che è, Filippo? Una cosa è ispirato lievemente, diciamo, un po' ispirato alle armature dei samurai, no? Con queste parti tutte lavorate. Però in realtà anche qui c'è tanto di Hellboy. Sì, è vero, la mano. Questo, lì ci sono un altro paio di guanti. Che sono complementi delle tute da palombaro, però di fatto sono ispirati a Hellboy, a tutto quel senso grafico così. Caldo, bellissimo. Quel robottone lì cos'è con la H davanti? Quello fa parte di questa collezione nacque nel 2016 per una pubblicità di Poste Italiane, dove me ne commissionarono 4 in un tempo record, 5 giorni, per realizzarne 2 da 1 metro e 2 da 1,5 metri. Realizzati i primi, consegnato al lavoro, ho pensato: ma questo è un territorio interessantissimo, recuperando giocattoli, oggetti domestici, smontandoli e facendo delle cose. E ho cominciato a farne una serie, e oggi ne ho fatti una cinquantina. Li ho portati in mostra qui a Castelnuovo, in una mostra mia antologica, dove avevo una quarantina di questi pezzi, e nei giorni di Natale ho detto: ma ne voglio realizzare uno grande di nuovo. Ho fatto questo, anche questo, in pochissimi giorni. Cioè, sono esseri antropomorfi che rinascono praticamente da residui di macchine che non funzionano più. Sì, parti, anche questi sono parti di, questi sono gli altri fusti della birra assemblati con parti di tubo corrugato, aspirapolveri smontate, tutti oggetti di questo genere. Tommy, ma stai tranquillo, stai col papà, dai, cosa c'hai? Cosa sono questi, Tommy? Cosa sono? Che sono questi? Cos'è? Piano luce. Un mostro? Sì. Vieni a vedere Copperman, vai. Ecco, parlami un po' di Copperman, come è venuta l'idea. Copperman è nato anche qui, è nato uno scenografo mi ha contattato, o meglio, ha contattato la produzione, stava realizzando Copperman, stavano cominciando a pensare a questo personaggio che doveva essere quest'uomo di rame. E questo scenografo con cui avevo lavorato, proprio con i robot, pensò a me e portò a mia insaputa alla produzione le immagini dei miei caschi da palombaro, che intanto erano già una serie, e loro videro il lavoro e dissero: no, questa è la persona giusta per fare questo costume. Mi contattarono e io andai alla prima riunione a parlare del costume, e non c'era ancora un design, non c'era nulla, tant'è il design del costume è mio. Oltre la realizzazione, e mi presentai alla seconda riunione quando mi chiesero dei disegni con questo. Avevi fatto questo piccolino Copperman. Gli ho portato questo ed è stato diciamo il master da cui poi è partita la realizzazione del costume. Questo, con lo stesso principio smontabile e applicabile, ho praticamente realizzato il costume in miniatura, un prototipo che è andato bene, diciamo, all'85% come definizione. Poi dopo ci sono state piccole richieste di modificare alcune cose, ovviamente era un modellino, però il principio con cui è stato realizzato è quello con cui poi, che poi ho applicato a quello a grandezza naturale. Cioè, lì dentro c'è entrato Luca Argentero. Lì dentro c'è entrato Luca Argentero ed è stato realizzato in 2 copie per Luca, cioè 2 copie complete, identiche, che erano proprio i cambi per, ovviamente, per necessità di scena, quando c'era qualche pezzo che magari si sganciava o doveva essere restaurato, più una terza copia per lo stuntman, che era realizzato con delle parti tutte in gomma morbida, cioè tutte le parti qua che voi vedete qua, che sembrano appunto in metallo, ma in realtà sono in plastica, perché tutte queste parti qui Ah, certo, sono tutte in plastica, sembra di rame invece. e invece è trattato, ma è Ah, certo. plastica. E tutte queste parti qua sono state le parti rigide, quelle che gli impedivano i movimenti, sono state replicate in Evaform, che è praticamente i materassini da palestra, per intenderci. Perché se non c'è da far male se cascava. Non doveva farsi male, ma soprattutto doveva potersi Muovere, muovere, considerato che il personaggio nel film pattina, quindi ha sotto un paio di pattini in linea, cammina e gira di notte per Spoleto. E insomma, e compie una serie anche di acrobazie notevoli, per cui ci sono state scene. Tra parentesi, Luca Argentero pattinava benissimo, andava benissimo, però c'erano delle scene in cui obiettivamente era pericoloso. no, doveva agganciarsi a un autobus in corsa, doveva cadere da delle scale, insomma, tutta una serie di cose piuttosto complesse. Qua c'è Questa che è? Ah, questo beh. Questo è un pezzo di campione che mi è rimasto perché era fallato, che io ho trattato come se fosse un antico resto romano. Era una spada del Ben-Hur, quello del 2015. Ah, quella originale? Quella una delle spade dei soldati, perché io lavoravo... Le hai fatte tutte te? Le ho fatte con... Io ho lavorato nel 2015, a oggi ancora collaboro con Machinarium, che era una delle società più importanti. Vengo, visto qualcosa? No, è perché ho visto il cane. E niente, ho cominciato con loro su Zoolander 2, e poi abbiamo fatto Ben-Hur e tutta una serie di altri film. E io a oggi ancora collaboro con loro per realizzare props e oggetti di scena. Quali sono le cose con cui ti diverti, che non sono di lavoro ma sono solo tue passioni? Parto solo da una tua idea. Allora, io continuo a realizzare, a parte io sono... Questa fiocina cos'è? Mi hai detto? Questo è un debito con Hellboy, ma soprattutto con, se conoscete Hellboy, con Baltimore, che è un altro personaggio suo, di Mike Mignola, che è una sorta di ACAB ambientato nel 1915, perché è un ufficiale inglese che combatte i vampiri, ma con la fiocina, una gamba di legno, con un rampone da baleniere, tutte armi, diciamo, dell'epoca, e quindi è una sorta appunto di ACAB, non direi nemmeno postmoderno, ma sicuramente una versione intrigante e particolare. Finché un giorno eravamo a Roma e io mi stavo scervellando che altro potessi trovare, appassionato collezionista di cose strane e singolari, e mi sono ricordato di quello che sicuramente è il mio maestro di radio, Renzo Arbore. Lo è probabilmente per tutti quelli che fanno radio. Io mi ricordo Alto Gradimento, tornavo in fretta da scuola e lo ascoltavo, e mi sembrava qualcosa di magico, di lontano. E mai avrei immaginato che poi avrei fatto anch'io lo stesso lavoro. Renzo è sempre molto generoso verso i suoi colleghi minori, e naturalmente è bastato telefonargli e dirgli: senti, un figlio un po' strano, come tu sai, vorrei portarlo a vedere i tuoi giocattoli. E subito è entrato nel ruolo, come siamo entrati a casa sua, che è un vero museo di cose singolari, tutte di plastica. E trovo meraviglioso ci sia qualcuno che collezioni plastica proprio al tempo in cui la plastica è bandita, è proibita, viene considerata come qualcosa di immondo, eppure la plastica ha prodotto cose meravigliose in altre epoche, e Renzo ce l'ha tutte dentro casa, allineate. Beh, come arriva Tommy, per preparare il clima a un ragazzo strano, a modo suo Renzo ha messo in scena questa particolare, folle situazione. Ha una di quelle fart machine, che sono delle macchinette che con un telecomandino producono rumori innominabili, la nascosta fra i cuscini del divano, e quando Tommy si è seduto è esploso l'effetto. Che hai fatto, Tommy? Siedi un po', vai. Che hai fatto? Che hai fatto? Tommy, che hai fatto? Siedi. Fat machine. Sono le collezioni delle stronzate. Allora, spieghiamo un attimo di che si tratta. Si è tratta. Allora, mettiti sulla sinistra. Decide il maestro. Tommy sta così. Anzi, Tommy, fammi mettermi in mezzo, sennò io devo parlare. Vai qua. Tanto tu, non è molto loquace, però sta attento. Così, mette le gambe come il papà. Fa la persona educata. Cos'è? Sky Art? Sì, Sky Art. Quindi sono elegante così o è troppo frivolo per Sky Art? No. Sta benissimo il pandan del fazzoletto. Il pandan del fazzoletto. Lo trovo fantastico. Noi siamo sobri, come vedi, non sobri a maglietta. Io. Siamo tutti frivoli, sì. Vabbè. Vabbè, casa Arbore non può che essere così. Parto da una mia idea, forse folle. Chi è che può permettersi di dire sono matto? Gli artisti. Dire sono matto. Solo gli artisti. Sì, gli artisti. Un'altra persona matto va al manicomio. Sì, genio e sregolatezza, eccetera, questa roba qua. Mio figlio, per salvargli la vita e non far sì che debba finire rinchiuso quando io sarò schiattato, devo farlo mettere in contatto con qualcosa che riguardi l'arte. Qui c'è arte, dovunque c'è gente strana c'è arte. Voglio che lui stia a contatto con persone che siano strane e legate al mondo dell'arte. Qui è musica, ricercatezza, oggetti, design. Finché sta in questo ambito, lui può permettersi di essere col cervello diverso. Eh certo, certo. Se lo sonetti in mezzo alla gente normale, è un matto fuori, deve essere incluso. No, no, no, no. Quindi no, Tommy voglio il più possibile. Io sto facendo il giro dei miei amici, che ma, so un po' strani, con cose sì, strane, ma voglio fargliele vedere. Non solo, ma io li ho sempre adorati quelli, io vivo nella provincia, quindi figurati, i matti o quelli un po' strani della mia città, erano i miei preferiti, io mi sono ispirato a loro, quelli beh, inventori di cose curiose, di collezioni, di cose, quelli che dicevano delle cose fuori ordinanza, dico io, sai, quello è sempre. Allora abbiamo pensato di fare questa cosa strana. Stiamo girando questo film, girando tutta Italia, cercando persone che collezionano cose fuori dall'ordinario. Sì. Perché diciamo, gente che colleziona cose fuori dall'ordinario è capace ad accettare persone col cervello fuori dall'ordinario. È pazza questa cosa. Certo, come la trovi come idea? Sì, io è ottima come idea. E io fuori dall'ordinario sono, credo... Da quando sei nato? Da quando sono nato, vabbè, ho avuto un'infanzia, come al solito, c'era la guerra, quindi infanzia non potevo permettermi cose che mi divertissero, però facevo delle cose fuori dall'ordinario, già capito, facevo quelle cose... e poi tutta la mia vita è stata la ricerca di fare cose un po' fuori dall'ordinario, questo... I miei programmi sono sempre stati alternativi, tu sei un maestro in questo rispetto a quello che facevano. Allora, tra le cose fuori dell'ordinario, io sono collezionista, visto di cosa? Che ho fatto di il termine si chiama gadgets, si chiamano in americano, come questo, per esempio, che è un televisore dove c'è, vedi, la chitarra, la cosa, adesso se non è scarico potrebbe suonare. Vieni qua, metti vicino al maestro, te lo spiego. Ci sono le batterie, vediamo. Guarda, se funziona, però, non lo so. È on, vediamo. Vediamo, power. No. Cos'è quello, Tommy? È un televisore dove vedi, premendo le cose, c'è scritto power, sì. Forse beh, ma evidentemente no, questo è scarico. Tu ti piace la plastica, ti piace? Sì, io so, dopo ti faccio vedere la mia collezione di plastica. Queste sono sempre... Aspetta. Dove vai? Vabbè, la cosa è interessato. Ma vedi, lui è stato attirato a quello, cos'è, Renzo? Quello... Che sta guardando quel carillon, cos'è? Adesso lo faccio possiamo? Vedere. Possiamo? Allora... Aspetta che ti faccio vedere. No, voglio seguire come fosse un cane da tartufo, le cose. Vieni qua, no, Tommy, qui, questo è col papà. Questo cos'è? Ti piace? Allora, questo è un circo, qui. Ah, ecco, perché ho tiratissimo dal circo. Qui, porca miseria, perché non... Vabbè, dai, quello che funziona, non ti preoccupare. Cioè... Questo è qui. Ah. Adesso comincia lo spettacolo. Sì. Lo vedi? Ti piace? C'è uno spettacolo vero e proprio. Ti piace? Sì. Cos'è? Cos'è? È lo schiaccianoci, si chiama. Aspetta che finisce questa rappresentazione e attacca un'altra. Ah, addirittura c'è un palinsesto. Da dove viene questo? Americano. Ballerine. Ti piace? Sì. Aspetta che adesso ce n'è un altro di spettacolo. Quando finisce questo... Balletti famosi. Sì. Cosa c'è adesso? Un altro spettacolo. Cambia la scena, vedi? La follia pura. Queste sono le cose che rimani bambino tutta la vita. Questo sì, invece è un circo. Questo è un circo, suona anche la musica, ma l'ho zittita per non disturbare. Vedi il circo, che sono? Che appassionato di elefanti appassionato. Ecco l'elefante, guarda. Perché mi mettono questo dietro, è nascosto. Vabbè. No, non ti voglio far disturbare dal... No, vabbè, vabbè. Un po' ti cade magari, stai buono. Questo è bellissimo. Quello qua c'è anche la musica, però... No, ma basta così, facciamo uno e sonorizza l'altro. Vediamo un po' le altre cose, va. Chi è questo? Questo sono io. Nonno. Ma che nonno? Questo sono io, guarda. Questo l'ha fatto un... il mago di Oz, di Orvieto, che ha fatto tutta la mia biografia miniaturizzata, vedi? Ma prendendolo dai giornali, da tutto, vedi i manifesti dei miei film, le gravate, vedi i manifesti dei miei dischi, dei film, dei dischi. Sono proprio corrispondenti alle cose. Tutto miniaturizzato. Qui, vedi, ci sono... C'è un telefono? Sì, vabbè, lascialo perdere. Occhiali molto... e borsette da donna, perché hanno... Ma è immensa, è una... No, ma io le cose vere stanno in una mostra che sta andando a Foggia. Questo è un cervello, posso vedere? Sì, questo è un cervello, Tom, sempre di plastica. Cos'è questo? C'è? Certo. Cervello, mamma mia, proprio quello che avremmo bisogno. Dario, scusami tanto. Ti volevo dire quali sono le canzoni arrangiate da Morricone, perché mi fa un'intervista. Ti ricordi? Abbronzatissima, guarda come dondolo, poi qualche altra. Sì. Sapore di sale, no, ma quelle dove faceva l'arrangiamento con i suoi tipici suoni, gli stacchi, che poi sono diventati anche un classico. No, lo so, ma c'è qualche canzone tipo quella, se non avessi più te, don, sai, faceva questi arrangiamenti strani. Però... Tutti quelli di Morandi sono. Sì, ma anche di, Edoardo Vianello. Quello è un gatto finto. Guarda, torna un gatto. Se non avessi più te. Sì, sì. Mi vedrai tornare. Vabbè. Vianello, abbronzatissima, certamente. E anche guarda come dondolo. Vabbè, poi lo vedremo. Vabbè, che sto facendo una piccola intervista. Vabbè. Senti, grazie delle informazioni. Poi ricambio. Quando vuoi ci vabbè, devo. Dovevamo vederci. Ciao. Però la zona voglio intima. Portare lui a vedere in cucina, che ci diverte di più. Dai, in cucina, vai Tommy. Perché secondo me... Vai in cucina con me. Vieni. No, non è qua. Vieni con me. Vieni con me che ti porto in cucina. È arrivato Tommy col suo papà. Se vuoi parlaci. Tuo nonno. Dì, ciao forte. Ciao botte. Dì, sono Tommy. Ciao Tommy. Sì, no, dì, sono, non tocca. Sono Tommy. Ciao Tommy. Forte. Hai sentito che è Tommy? Tommy. Sono uccelli veri. Capito Tommy? Quasi veri, pare. Questo è il corno della fortuna. Questo è un corno. Però la cosa strana è che io affaccio su Napoli. Sto a Roma, ma affaccio su Napoli. Perché questa è Napoli. Guarda Tommy. La finestra è su Napoli. Ah sì, come se fosse... il golfo di Napoli. Il golfo di Napoli. Ti piacciono queste cose, Tommy? Sì. Un pochino sconcertato e spaventato. Ti piace il panorama di Napoli? Ti piace, Tommy? Sì. Vedi? Con la luce, vedi che il mare cambia di colore, Tommy. Guarda. Il mare adesso è verde. Mo lo facciamo diventare blu. Piano diventa blu. Aspetta, Piano. Vedi, sta diventando celeste. Celeste. Guarda le stelle. E ora diventa blu. Bello. Però io vorrei che fa sentire delle canzoni a Tommy. Pronto? No, le canzoni. Ho capito, ma... No. Chi sono quelli, Tommy? Gianno. Capito, ma io vorrei far sentire delle canzoni. Cinguetta ne basta, dai. No, vediamo. Non li forziamo. Aspetta. Adesso cantano. Vale. Guarda, Tommy. Questo ti è piaciuto. Lo vedi? Vale. Mi piacciono. È coinvolto, l'hai coinvolto. Sento, Tommy, vieni qua Tommy. Di cose curiose sì, ne sono. Vieni qua Tommy. Vieni qua. Dove vai? Siediti. Le abbiamo viste di cose. Ti vuoi sedere? Bello. Ha portato il caffè la signora, adesso prendiamo il caffè. Già, sì. Il caffè. L'ha messo di qua, mi ha detto. Tu rimettiti seduto lì, tranquillo, buono. Non so dove l'ha detto la signora, l'ha messo qua. Sentiamoci qua. Ah, eccolo, perfetto. Ah, vedi, il caffè è pronto. Ah. Tommy, basta! Ragazzi, ancora? Se dovevo prendere il caffè. Stoppo un secondo. Ciao. Te lo vuoi, Enzo? Servitemi voi, no, no, grazie. Il viaggio con Tommy prosegue. Presto una nuova tappa e nuovi incontri fuori dell'ordinario.